sul tuo lardo, specchiato nel divano, liturgia del tuo concetto di democrazia. La bimba qualche vizio, la puttana resta troia, e il mio corpo porco solo schiuma di cervello. Sultana è scritto in calce.